sono Zorza. E praticamente diciamo che io ho lavorato tanto sulle emozioni che ho percepito in queste uscite, e quella che mi ha colpito di più è stata l'idea di vuoto e di come diciamo i vecchi dicono loro stessi che Sborgo Sacco è un paese per vecchi perché non c'è più niente adesso. Allora, siccome tantissime aree verdi sono state diciamo svuotate per creare parcheggi, io ho pensato praticamente di ricreare un'area verde, e quindi diciamo anche per fare, non so, un posto per incontri sia per i bambini che per i ragazzi che per gli anziani, quindi per tutti. E quindi in quest'area immaginaria che vabbè, ho pensato, e ho creato una panchina. Praticamente la panchina è fatta da cubi, vabbè qui non si vedono perché sono piccole le foto, e sono moduli praticamente, allora sono cubi di materiali diversi. Ci sono alcuni che sono fatti in ardesia, che praticamente è il materiale che veniva utilizzato una volta per le lavagne a scuola, quindi insomma è un rimando al passato. Poi ci sono altri che sono in acciaio ossidato, perché comunque l'acciaio è un materiale che è resistente, è ossidato perché sembra rovinato, quindi più antico. E poi alcuni sono in rete o acciaio forato, perché praticamente, cioè, siccome è una forma tutta di cubi, è abbastanza pesante per renderla più leggera. Poi, anche se è una panchina, ho creato due sedute separate che praticamente diciamo, si danno alla schiena. Perché ho notato che quando, ce la faccio anch'io, quando vado al parco magari c'è una panchina da 5 posti con una persona che non conosco, ne cerco un'altra vuota, cioè non mi siedo dove c'è già qualcun altro. Quindi ho pensato di creare una panchina con due sedute più piccole, che però può essere più sfruttata. Perché praticamente le due sedute sono separate in mezzo dai cubi. Quindi una persona comunque si siede, diciamo, vabbè, sente quello che dice quello dall'altra parte, però deve ascoltare proprio, non è che... Cioè c'era comunque la privacy stando vicini. Poi mi piaceva anche l'idea che comunque se si siedono le persone sulle sedute diverse hanno visuali completamente opposte, e quindi è come dire Borgo Sacco visto dai vecchi e dai giovani completamente opposto. Quindi dalla panchina, pur essendo la stessa, tu ti siedi e vedi cose completamente diverse in base a dove ti metti. Poi vabbè, laterale ho messo un cubo più grande che praticamente è forato lateralmente dove va inserito una nuvola, in modo che comunque diciamo, si possa mescolare con il verde che è intorno, con nuvola, dentro la panchina. Diciamo, emozioni che mi hanno particolarmente colpito nelle uscite è il vedere un posto che conoscevo già, perché comunque quando uscivo per Borgo Sacco uscivo sempre con gente o capitava lì o di Rovereto, comunque cioè era più una cosa, non guardavo cosa avevo intorno, le emozioni che percepivo, era più una sono in giro, mi diverto. E invece magari con comunque essendo che qui in classe nessuno della zona, vedevo che guardavano le cose come se fosse la prima volta che le vedevano, e quindi allora mi sono messa anche un po' a fare come loro. E è diversissimo anche, poi tornando a casa ho guardato anche Volano, che è dove abito io, e lo guardavo e pensavo, cavolo, queste cose non le ho mai notate, però sono qui da 18 anni, non le ho mai viste. Cioè è un po' come Mattia Pascal, boh, che non si è mai accorto dei suoi difetti, così dopo un giorno si accorge, cambia tutto il suo mondo. Comunque è un modo diverso di vedere le cose. Sì, perché comunque secondo me, non lo so, ma anche se tu ti siedi sulla panchina e non vedi quello che hai dietro, diciamo, comunque lo senti che c'è, però sei anche a tuo agio, perché comunque sei isolato dai cubi, sai che c'è una persona di là, però comunque la tua privacy, quindi secondo me riesce più a... Poi sei in un parco pubblico, quindi c'è comunque la gente intorno, e quindi avendo la gente intorno sei più rilassato, più tranquillo. E allora... Il posto preciso che ho pensato io, cioè dove mi sono immaginato di fare l'area verde, è praticamente vicino alla piazza, dopo il ponte, quella è dove c'è la chiesetta dei zatterieri, sì, praticamente, e tra quella e quello di tatuatore, che c'è il parcheggio, perché mi è rimasto impresso che un signore ci aveva raccontato che lui andava lì a giocare, e sua mamma abitava nella casa a fianco, c'erano tutte le mamme sui poggioli che le chiamavano quando c'era pronta la cena, così loro giocavano lì. Adesso invece sulle macchine non c'è niente lì. E comunque lì sarebbe anche un bel posto perché è vicino alla piazza, quindi non so, metti, scendi dal tram, ti trovi lì con quello che viene da Rovereto, col suo amico di Sacco che si trovano. Comunque è attaccato al centro, quindi diciamo i vecchietti possono andare lì facilmente. Le mamme portano i bambini, è vicino al fiume, vicino, cioè secondo me sarebbe anche un bel posto per rimettere il verde. Poi se c'è il problema del parcheggio, c'è il problema dei soldi, però si potrebbe pensare di creare un parcheggio sotterraneo che potrebbe essere anche più grande, già che comunque è sotto, non è a dei limiti.